Voci nell'Italia di fine secolo. L'importante è che le parole abbiano un rapporto con le cose. Voices in Italy at the end of the current century. What counts is that the words have got a relationship with the things. Forza Italia. Chi ce l'ha più duro? Serial killer.